questo piano per parlare un po' di noi. Io sto male, voglio dirlo solo a te. Stringimi forte, amore mio, dammi la tua mano. Troppe nuvole, stasera pioverà, ma noi siamo insieme e non ci bagnerà. Vedrà che un giorno cambierà, combatti. Música.